Io di te sopporto mille forme. Facile come evitare gli imprevisti. Su di me hai pensieri contrastanti che non sai dubitare. Quando tutto è normale e ci rubano il silenzio a mezzanotte. Pensaci tu, se della nostra tenerezza resta un dubbio, un diluvio universale. Tu ti lasci attraversare da ogni goccia senza dire niente, niente. E noi nelle sfumature di ogni posto, profondo esistenziale, tu ti lascerai cullare da ogni onda senza fare niente. Io e te, alibi seriali. Ci sono cose che se non le impari ora non le impari mai, ed io non le posso ignorare. Voglio dirtele in un bar a mezzanotte. Pensaci tu, della nostra tenerezza resta un dubbio, un diluvio universale. Tu ti lasci attraversare da ogni goccia senza dire niente, niente. E noi nelle sfumature di ogni posto, nel profondo esistenziale, tu ti lascerai cullare da ogni onda senza fare niente, niente per provare a capire. Sul letto a testa in giù, dividere i miei problemi e le punte dei capelli senza farci male. Pensaci tu, se della nostra tenerezza resta un dubbio, un diluvio universale. Tu ti lasci attraversare da ogni goccia senza dire niente, niente. E noi nelle sfumature di ogni posto, nel profondo esistenziale, tu ti lascerai cullare da ogni onda senza fare niente. Io e te.